This Is Not an Exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. Seen enough to eye you, but I've seen too much to try you. It's always weirdness why you dig it much too much to fry you. The weirdness flows between us, anyone can tell to see us. Freak scenes can't believe us, or can it just be cool and free us? Buonasera a tutti, siamo ancora in diretta qua dagli studi di Radio Città del Capo, sono le 21.06 minuti primi, beh li avrete riconosciuti questa sera, una puntata con musicisti piuttosto famosi, dico bene dottor Scarpa? Sì, buonasera a tutte e a tutti, oggi facciamo, insomma, riproponiamo un gruppo che era un po' uscito dalle scene, no? Su quei gruppi che poi ricompaiono dopo un po' di anni, insomma. Per farla breve, sono i Dinosaur Junior del buon Jim Ashis e Lou Barlow al basso. Poi loro hanno fatto, insomma, altri gruppi, carriere parallele, quanto, però insomma loro sono i campioni dello shoegaze, forse possiamo anche dire, per certi versi, o no, vabbè. O comunque quelli che hanno riportato nel punk il gusto di fare degli assoli, tremendamente rumorosi però. We'll be right back. Beh, dicevamo Dinosaur Junior, diciamo che loro si formano alla metà degli anni 80 e poi in questo 88-89 esplodono questo album che stiamo facendo sentire, si chiama Bug. E beh, all'epoca erano qualcosa di molto innovativo, tutto sommato veniva dall'hardcore come facevano Marf, Jay e Lou, che erano appunto gruppi di formazione hardcore. D'altronde gli anni 80 sono stati gli anni in cui tutti suonavano hardcore. Poi innamorandosi di altri generi, buttano dentro il solo, che era stato rigettato completamente dai gruppi, dal punk e dai gruppi punk hardcore. Ma all'inizio, per chi ascoltava i Dinosaur Junior, sembrava che Jay Mascis non sapesse suonare. Anche dal vivo si faceva un po' come Frank Zappa, no? Si guardava le mani, quindi da vedere non era sto granché. Ma non era sto granché anche semplicemente perché erano completamente apatici, abulici sul palco e non si curavano minimamente del pubblico, ma facevano un frastuono quasi demenziale. Sì, anche perché comunque il carattere di Jim Mascis non era dei migliori, lui timidissimo, infatti voleva pure a volte suonare la batteria, per dire, per nascondersi un po', per non essere il frontman del gruppo. E lui che veniva comunque da una famiglia benestante del Massachusetts, della città di Amherst per la precisione, figlio di un dentista, col fratello che lo inizia alla musica, anche se poi il fratello dopo un po' inizia a studiare sul serio, a mettersi a studiare giurisprudenza, legge, e diventa uno degli avvocati più affermati dello Stato addirittura. Lui invece, insomma, pecora nera, forse se vogliamo dire, della famiglia, continua nella sua ormai presa musicale e inizia appunto bazzicando gruppi della zona, no? Poi viene a conoscenza del buon Lou Barlow, amici comunque di infanzia, e il gruppo viene fuori, insomma, e i primi tre dischi lasciano il segno. Primi tre dischi su SST, di un genere che ancora non sapevo bene come dichiarare, ma evidentemente da quelle parti, stiamo parlando del nord-est americano, butta bene per questo tipo di rumore. Anni dopo vennero fuori Lightning Bolt, non c'entrano niente, ma ve lo dico lo stesso perché abbiamo in palio un biglietto per voi ascoltatori. È il primo che ci manderà un'email qua in diretta in radio. Beh, il diretta perché abbiamo un concerto questa domenica, quindi domenica qui al Locomotive ci sarà il concerto di Lightning Bolt. È un po' che non vengono qua a Bologna. Dicevo, chi vuole può mandare, chi vuole provare a vincere, il primo che manderà un'email a diretta@radiocittadelcapo.it, beh, si aggiudicherà questo biglietto. Yeah. Beh, dicevamo che Jay Mascis aveva un carattere strano, si vedeva moltissimo sul palco, sembrava veramente un inetto, involuto e timidissimo, è vero, però fino a un certo punto, perché poi quantomeno la sua era una guerriglia muta, e se tanto voleva ad arrivare a litigare col compagno di mille battaglie come Lou Barlow, ricordo che erano insieme già da quando erano ancora alle scuole superiori, appunto una battaglia non parlata, perché Jay Mascis, come diceva prima il dottor Scarpa, non era esattamente una persona loquace, ma Lou Barlow alla lunga si esasperò. Infatti Bug, questo qui è soltanto il terzo disco, ma Lou Barlow ne aveva già le tasche piene, e a una certa, durante un concerto verso la fine dell'89, diede in escandescenze, perché se non c'era verso di far smuovere Jay Mascis dalla sua pseudo catatonia, a un certo punto, visto che Jay Mascis usava il gain a tutto spiano, anzi a manetta, per ottenere le distorsioni che assordavano il pubblico, a rubarlo cominciò ad armeggiare durante il concerto col gain, mettendolo dove non serviva e togliendolo quando serviva durante il live. A quel punto Jim Mesh si rispose cercando di colpire con la chitarra Lou Barlow, Marv le lasciò il palco e Lou Barlow salì sulla batteria trionfante. Insomma, questo decretò la fine dei Dinosaur Jr. a tre, che poi continuarono però come duo, perché Jim Mesh sembrava un po' catatonico, ma non lo era del tutto, perché aveva già capito, fiutato la situazione, e in pochi giorni riuscì a rimpiazzare Lou Barlow con un altro bassista e a continuare il tour promozionale in Australia senza perdere alcun colpo. A proposito di live, ricordo ancora, per chi fosse in ascolto, se volesse mai, per chi volesse provare a vincere un biglietto per il concerto di Lightning Bolt di domenica qua al Locomotive, ricordo Lightning Bolt, Noisers, molto più giovane di una generazione dopo rispetto a Dinosaur Jr. Beh, se volete mandare un'email a diretta@radiocittadelcapo.it potete provare a vincere. Per ora, yeah, we know. questa è Radio Città del Capo, Dinosaur Junior per questa sera. Insomma, se vogliamo parlare un po' delle influenze musicali, sicuramente possiamo andare a sbattere sugli Asker Du, maestri, no? di questa miscela esplosiva fra sonorità e grintose, insomma, e ganci pop. Poi comunque loro battezzavano anche le come maestri i Cure, addirittura, per certi versi qualcuno l'ha accostati, e Neil Young sicuramente c'è qualcosa di Neil Young nel suono dei Dinosaur Junior. Ricordiamo che i tre dischi firmati per la SST, l'etichetta dei Black Flag, erano Dinosaur, appunto, You Are Living All Over Me e Bug. Il nome è curioso, no? Da dove viene il nome, l'origine, perché praticamente loro si chiamavano soltanto Dinosauro, soltanto che qualche componente della psichedelia californiana del periodo, Grateful Dead, insomma, non so chi di preciso, rivendicò, insomma, l'originalità del nome appunto a un gruppo del periodo 16 californiano, e loro dovettero aggiungere il Junior al Dinosauro. Insomma, diventano Dinosaur Junior per la felicità delle college radio, che comunque li mandavano abbastanza diffusamente. We'll be right back. Già, ripartiamo dal nome. Dinosaur Junior. Non deve essere stato del tutto casuale. Quelli che li citarono per danni erano ex hippie o comunque figli dei fiori, figli della cultura degli anni 60, i cosiddetti baby boomers, ed era abbastanza strano che coloro i quali, con dei jacques pesanti, contestavano le istituzioni che, a loro dire, li opprimevano negli anni 60, poi usavano una di quelle istituzioni, quella giudiziaria, per farsi giustizia, comunque per mantenere i loro privilegi, in questo caso i loro diritti discografici. E Dinosaur Junior non è casuale, perché Jay Mash e i compagni sono figli della generazione successiva. Statisticamente si va di vent'anni in vent'anni. Lou Barlow, Jay Mash e Murph sono tutti nati negli anni 60, mentre i baby boomers sono quelli nati tra il 41 e il 61, statisticamente parlando. Beh, loro sono stati una generazione abbastanza fortunata. Chi è nato in America nel dopoguerra o giù di lì ha visto, come dire, il mondo del capitalismo in forte espansione. Tutti avevano accesso a una grandissima quantità di merci, potevano addirittura scegliersi il lavoro, mentre magari chi è nato vent'anni dopo si è scelto la disoccupazione direttamente. 21:48 minuti primi, siamo sempre in diretta dagli studi di Radio Città del Capo e voi siete in ascolto sui 94,7 megacicli oppure sui 96,25 megacicli in modulazione di frequenza, o magari siete in streaming da chissà dove se non siete nell'area metropolitana bolognese. Dunque, per quanto riguarda il nostro concorso dei Lightning Bolt, è arrivata una mail direi laconica, semplicemente intitolata "Eccomi", me l'ha mandata Angela Foresta, così si fa chiamare, quindi direi che ha vinto lei, oppure ne è arrivata un'altra da qualcuno che si firma Dino, ma d'altronde stiamo inseguendo, raccontando un po' le geste dei Dinosaur Junior, quindi ci sta. Beh, se Angela ci conferma il suo nome e cognome, beh, diciamo che ha vinto lei, altrimenti avrà vinto Dino. Comunque dichiaro solennemente chiuso il concorso per il biglietto di Lightning Bolt. Rien ne va più e noi continuiamo con un po' di rumore. Shot by daylight, and I pray maybe that you're right, but if you don't, Questo era Jay Mascis, ormai solitario nella composizione delle canzoni. Eh sì, perché siamo già al quarto, addirittura quinto disco, non mi ricordo più, si chiamava Where You Been, e qui il botto fu clamoroso, andarono addirittura in Ivy Rotation, una cosa strana per un freak, possiamo definirlo come tale, come Jay Mascis, perso nelle sue schitarrate, per chi mai l'avesse visto dal vivo. Ultimamente Jay Mascis, non so se sia diventato sordo, ma suona circondato da sei casse Marshall messe a semi-esagono e lui in mezzo, con un volume parossistico, quasi che la sua criniera ormai color argento venga soffiata via dal volume d'aria mosso dagli altoparlanti. Non oso immaginare come siano arrivati i suoi timpani. Comunque, tutto questo per stonarsi, o comunque per rimbambirsi in quello che erano anni, la fine del reganismo, ne parliamo sempre, ormai vi avremmo anche rotto le scatole. Anni per i quali chi era nato appunto negli anni 60 si ritrovava disoccupato, sottoccupato, oppure semplicemente limitato a scegliersi un lavoro, basta che sia. Tutti i personaggi che potete trovare, per esempio, noi ci chiamiamo This is not an exit, che è l'ultima frase di American Psycho, un altro romanzo di quegli anni, ma un altro romanzo molto famoso, iconico per quegli anni, era Generation X, Generazione X, che non sono il gruppo vecchio di Billy Idol, ma è un romanzo che parla di quella che era appunto stata ribattezzata la Generazione X, la generazione che non aveva privo di significato, che non aveva nulla da rivendicare, appunto perché quando sei in quelle condizioni, che vuoi fare? Apprezzare il cibo non per il suo gusto, ma per una complessa mescolanza di connotazioni di ceto, appelli alla nostalgia e semiotica della confezione. Ho comprato con Kate questa scatoletta di Mab Whip invece che della nuova panna montata vera, perché ci è sembrato che questa panna distillata dal petrolio sarebbe stata benissimo sulla tavola della moglie di qualche aviere di stanza a Pensacola negli anni 60 per festeggiare una promozione. I'd like to come and see you, but what's it worth to know? Promise you'll make it easy, you won't get me to go. I've been a wreck so long it's hard to pull it back, but I'm on it and I want it and you're flaunt it. Takes me the breaks, yeah. Gone away, all the way. I wanna let you go. I gotta get to bed. Just can't pull it together before it goes to you. Gone away, all the way, all the way, all the way. jet set dei poveri, gruppo di persone dedite a una forma cronica di vagabondaggio turistico a spese di una stabilità lavorativa a lungo termine e di una fissa dimora. I soggetti in questione sono inclini a intrattenere relazioni telefoniche senza futuro ed estremamente costose con persone di nome Serge Oniana. Ai party discutono prevalentemente di tariffe aeree agevolate. D'altronde i Baby Busters come Jay Mashis e compagnia sono cresciuti in un mondo ossessionato a livello paranoico da valori collettivi come la pace, l'ambientalismo, il ritorno ai valori tradizionali, la spiritualità e soprattutto l'ottimismo. Quindi uno poteva prenderla in due modi opposti ma simili, come una fase dove un periodo storico dove tutto sembrava accadere, oppure una fase dove nulla sembrava accadere, quindi i sintomi erano sempre gli stessi: la soffocazione ai quotidiani, alle riviste e ai notiziari televisivi. In the place you said you'd meet me, I don't see you. That's all you ever tell me. Seems you don't wanna be found. Don't come over, can't get lower. No more meeting, I've been beaten. Got a blast of what I should be busy doing. Yes, I'm. Tell you that I miss you, but I'm pissed you blew me off. No more me, I've been beaten. Go ahead, fake it, I can't shake it. Antisabbatico, dice sì, di un impiego assunto con la sola e unica intenzione di mantenerlo per un periodo limitato di tempo, solitamente un anno. Lo scopo più frequente è di raccogliere denaro sufficiente per potersi dedicare a un'attività più creativa e personalmente più stimolante, come dipingere acquarelli a Creta o disegnare maglioni al computer a Hong Kong. Raramente i datori di lavoro vengono messi al corrente di queste intenzioni. Beh, insomma, i piccoli inserti che facciamo qui a This is not an exit, ricordo che sono le 22:15 minuti primi e siamo in diretta, sono presi, inutile dirlo, da Generazione X, un libro che è scritto su due colonne, una puramente narrativa e poi con degli inserti laterali e anche delle piccole vignette in stile pop art. Jay Mesh sembra un personaggio uscito da Generazione X e chissà che Douglas Kaufman, l'autore, non apprezzasse i nostri. Probabilmente sì, o comunque più o meno la generazione è quella, i testi sono anche dei Dinosaur Junior, sono estremamente intimisti e anche un po' depressivi, ma d'altronde avevano imparato a convivere con una società che molte prospettive non le regalava, non era più la società dei loro genitori, che avevano fruito di tante aspettative e poi rivelatesi opportune, quindi vere, ma per lasciare un sacco di debiti ai loro figli. Se negli anni 50-60 negli Stati Uniti c'era ancora un welfare state, che in Europa ancora non era arrivato, giusto forse in Inghilterra, poi negli anni 80 con l'arrivo di Reagan fu cancellato e demolito in fretta e furia, le tasse universitarie schizzarono alle stelle, la sanità fu privatizzata e chi si ritrovò adulto, adolescente negli anni 80 si ritrovò una vita che era peggiore di quella dei loro genitori, più violenta, più povera, e magari eri anche cresciuto in una famiglia monoreddito, ma soprattutto mononucleare, con solo la madre o solo il padre, perché i divorzi erano aumentati esponenzialmente. La liberazione sessuale aveva consentito questo a livello, appunto, era reso accettabile questo modo di fare, ma i risvolti erano stati pagati da molti bambini che erano cresciuti senza una struttura sociale, appunto, che mantenesse loro in condizioni dignitose, e questo provocava parecchio sconforto e magari tantissima rassegnazione. So what else is new? Won't you give me some? Bring it back. Won't you come and sleep? You're the only one. You're the only one. You're the only. e 22 minuti primi, siamo ormai alla fine di questa trasmissione. Siete in compagnia di This Is Not an Exit. Ormai siamo per passare le consegne a giornale radio di Radio Città del Capo, meglio di Popolare Network. Ci sentiamo comunque sempre dopo le 21, giovedì prossimo. Solite frequenze, solite divagazioni musicali. Letterarie musicali, ormai. Ma in questo oggi... caso sì, ok, ma non tiriamocela troppo. Orsù. No, però quando capita il discorso, insomma, disco uguale al libro, sta benissimo, è un bel discorso, insomma, speriamo che di non essere stati troppo noiosi. Tediosi, sì, no, vabbè. Però comunque il personaggio Jim Hashis un po' dava questa idea, no? Di generazione X. Secondo me proprio anche fisicamente assomiglia a Copland. Non so, ma no, la vedo così. Dovremmo guardare su Google Immagini, magari facciamo un confronto. Oppure mettiamo Douglas Copland a suonare la chitarra sul palco e a schitarrare, ma non penso arriverebbe mai all'efferatezza di Jim Hashis, che con la chitarra si esprimeva e come. Comunque... buon ascolto a tutti, buon proseguimento con Radio Città del Capo e buonanotte a tutti. Buonanotte. It won't stop peeling, but you're hooked, you just stop dealing. Don't be walls in your ceiling, cause you're floating off again. Run outside, my eyes are burning, I light up, now I'm learning. It's not a good sign, wheels are turning, rolling home to you. Left a few things, I'll be back for. It's a drag, still need a few more. Not a good sign. And I'm volume.